Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Per quel che mi riguarda sei un continente oblato, per quel che ho visto in fondo mi è piaciuto. Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee e il mutamento degli stili di vita mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. La nostra è una prospettiva di cambiamento verso una società più giusta, più aperta, più capace di futuro. È la puntata numero 721 e parleremo della sorprendente crescita del movimento animalista e antispecista attraverso un reportage da una recente manifestazione che si è svolta a Roma. Sarà questo il cuore della puntata, stavolta un po' speciale. Ma parleremo anche di scelte già prese o in via di definizione a livello parlamentare e di governo. Insomma, questa sarà una puntata in qualche modo politica, vista da dentro le istituzioni e anche, ma anzi soprattutto, da fuori. La colonna sonora della puntata stavolta sarà a doppia firma. Gianluca Masala per il reportage, Gabriele Parloni per tutto il resto, compresa l'immancabile ricetta non violenta della settimana. Così vanno le cose, così devono andare. Così vanno le cose, così devono andare. C'è, e chi non c'è non c'è, chi c'è, e chi non c'è non c'è. Chi è stato e chi è stato non è, e chi c'è, chi non c'è non c'è, chi c'è, chi non c'è non c'è. E non tacciamo i canti e si muove la danza, e non tacciamo i canti e si muove la danza. Alla fine il Parlamento ha approvato la legge che vieta la produzione e il commercio di carne coltivata, un provvedimento fortemente voluto dalle associazioni che difendono la zootecnia, in testa Coldiretti, e sostenuto con convinzione dalle forze politiche della destra di governo, in nome della tradizione, del cibo italiano, della diffidenza verso le novità, dell'indifferenza, aggiungiamo, verso la condizione degli animali e l'enorme impronta ecologica, risorse dissipate, suolo inutilmente consumato, inquinamento della zootecnia. Tutti mali cui potremmo aggiungere ancora la documentata nocività per la salute del consumo di carne. La legge, dicevamo, è stata approvata col voto delle destre, ma anche con l'astensione del Partito Democratico, mentre hanno votato contro i parlamentari del Movimento 5 Stelle e della sinistra. Il principale effetto di questa legge sembra essere il blocco preventivo di ricerche e produzione nazionali in questo nascente settore. La carne coltivata al momento non è commercializzabile in alcun paese europeo, ma è ragionevole pensare che entro qualche tempo lo sarà, non essendovi reali obiezioni scientifiche di salute da opporre. La carne coltivata entrerà dunque in commercio in Europa e il divieto italiano potrebbe decadere, in virtù della nostra appartenenza all'Unione. Ma se anche avremo i prodotti negli scaffali dei supermercati, sarà irrimediabile a quel punto l'assenza di laboratori di ricerca e case di produzione italiane. Un curioso esito per forze politiche che si definiscono sovraniste, cioè nazionaliste, e che hanno accompagnato il varo della legge con incessanti professioni di italianità e di omaggi alla tradizione, ignorando su questo punto, a dire il vero, che l'attuale sistema di produzione industriale della carne, basato sui grandi allevamenti intensivi, ha ben poco di tradizionale. La legge è stata contrastata dalle associazioni animaliste e anche dal mondo ambientalista, con argomenti in parte coincidenti, ma ha creato forti malumori anche nel mondo scientifico, visto che la campagna di sostegno al progetto, in particolare opera di Coldiretti, non si è limitata alla difesa della zootecnia così com'è, ma ha anche usato argomenti in apparenza scientifici, in realtà clamorosamente falsi. Va poi aggiunto che la legge contro la carne coltivata include anche il divieto di usare termini come bistecca, cotoletta, per alimenti di origine vegetale, altro cavallo di battaglia della zootecnia e della filiera alimentare industriale, altro paradosso per la destra politica, che in questi anni ha fatto della libertà di linguaggio, anche di discriminazione linguistica, uno dei suoi cavalli di battaglia, contro la presunta dittatura del politicamente corretto. A questo punto, per quanto ci riguarda, non potremo chiamare bistecca di tofu un'eventuale bistecca di tofu o cotoletta di seitan un'eventuale cotoletta di seitan. Che dire, incassiamo il miserabile divieto e continueremo a mangiare tofu e soprattutto quei cibi, innumerevoli piatti, della tradizione italiana a base esclusivamente vegetale, una tradizione che i nostri tradizionalisti sembrano ignorare. Sempre in materia di politiche pubbliche, di pseudoscienza e di reale odio per la vita animale, si segnala un'iniziativa presa dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, il quale ha presentato all'Unione Europea, a nome del nostro paese, un documento nel quale la figura dell'agricoltore è indicata come un bioregolatore. Secondo il ministro, il suo ruolo come custode del territorio, come regolatore della biodiversità, deve essere riconosciuto. Questa visione del tutto arbitraria e contraria a tutte le conoscenze scientifiche, etologiche, ecologiche accumulate nei secoli non è una semplice dichiarazione d'amore verso il mondo delle imprese agricole, ma una premessa ideologica al reale obiettivo, ossia la modifica della direttiva Habitat, quella che protegge specie animali e vegetali a tutela della biodiversità. Lollobrigida del resto è venuto allo scoperto, dicendo che l'uomo deve aiutare le specie in estinzione a sopravvivere, ma con la stessa determinazione deve valutare e intervenire per ridurre il sovrappopolamento di alcune specie. Proprio per questo, dice Lollobrigida, va rivista la posizione europea sui grandi carnivori, lupo compreso, alla luce della presenza attuale divenuta eccessiva in molte aree del continente. Insomma, l'obiettivo reale di tante astruse tesi pseudoscientifiche è la caccia al lupo, tanto che l'AV, Lega Anti-Vivisezione, si sta muovendo con una petizione al presidente Mattarella affinché si impegni a frenare, si legge nel messaggio che spiega questa iniziativa, l'avvio del più grande attacco mai sferrato dalle istituzioni contro gli animali selvatici. La mia casa a un chilometro da qui, con due Emma, un regno, beh, ecco il vostro re. E veniamo alla manifestazione di cui abbiamo parlato in apertura. Si è svolta a Roma lo scorso 18 novembre ed è stata il secondo atto dopo il sorprendente corteo di Milano, 10.000 persone secondo le fonti ufficiali, del 7 ottobre scorso, organizzato qualche settimana dopo i gravi e dolorosi fatti di Sairano, in provincia di Pavia. Un evento che tutti ricordiamo, 9 maiali liberati, uccisi nel rifugio Cuori Liberi dai veterinari della sanità pubblica, scortati da decine di agenti, in nome di più che discutibili necessità sanitarie legata alla diffusione della peste suina negli allevamenti industriali. Un fatto cruento e ingiusto, a accompagnato dalle violenze delle forze dell'ordine sugli attivisti che hanno tentato, con le parole e anche con i propri corpi, di proteggere Crosta, Crusca, Pumba, Dorothy, Mercoledì, Bartolomeo, Ursula, Carolina e Spino. A Roma circa 7.000 persone hanno camminato sotto lo slogan «Giù le mani dai santuari», a testimonianza di un attivismo in crescita, ma per molti versi sorprendente, sia nelle forme che nei contenuti della protesta e della proposta. Un attivismo che al momento sfugge all'attenzione dei grandi media e degli osservatori più accreditati nel discorso pubblico. Un discorso pubblico, per la verità, piuttosto ossificato e chiuso in se stesso. Ascoltiamo il reportage di Camilla Lattanzi, montato e musicato da Gianluca Masala. Partiamo anche da un contesto che, se vogliamo pensare a una riconversione delle aziende che stanno facendo prodotti con derivati di animali, in un pensiero che potrebbe un domani lontanissimo riconvertirsi, è da qualche parte dove iniziare. E comunque si torna lì, cioè ognuno, se uno si vuole mangiare un giorno a giro per Firenze dice mi vado a mangiare il panino sorso vegano nel posto dove fanno anche la cipolla, cioè ragazzi, si molla sugli altri. Si deve mangiare solo nei posti completamente vegani, allora del posto. Quando si va a manifestare a Roma, noi persone animaliste e vegane non possiamo non fare una tappa da Romeo Cat Bistro, un posto vegano popolato da gatti che sono padroni di casa e noi ospiti. Sono qui con un'attivista che è venuta per la manifestazione, Michela. Le chiedo che cosa sta mangiando. Ho scelto cose chiaramente tutte super sfiziose e buonissime, perché da Romeo Cat Bistro si mangiano solo cose sfiziose e buonissime, e in questo momento sto addentando il cacciucco. Ma prima del cacciucco che cosa hai preso? Prima del cacciucco, Leonora, che è un'altra attivista da Mantova, abbiamo preso l'antipasto di seitan. Seitan fatto in casa con salsa tonnata, rucola selvatica, capperi, cocunci e crostini di pane a lievitazione naturale. La salsa tannata veramente da sturbo, si può dire in radio? Certo, il cacciucco è di jackfruit con pane rustico macinato a pietra. E ora aspettiamo che servano i miei gnocchi di riso coreani con ragù di funghi di stagione, caviale di limone e zenzero marinato, e poi ci butteremo sul dessert. Eravamo quest'estate, giusto Laura, ad Anzio, e abbiamo fatto una protesta davanti al circo, perché il circo con gli animali, diciamo, non è accettabile, non è, è inimmaginabile quello che quegli animali devono soffrire, e le persone non se ne rendono conto. E quindi lascio la parola alla mia amica. Che è successo? È successo che eravamo poche attiviste, c'era tanta gente. Però la più grande soddisfazione è stata quella di aver visto un papà che, dopo averci ascoltato, è andato via. Ha detto: adesso le mie bambine le porto in un ristorante, non al circo. Quindi sì, per noi è stata una vittoria, sarà le gocce che fanno il mare, però... Esatto. Grazie. Grazie. Come vi chiamate? Alessandra. Laura. Di dove siete? Roma. Io, Aprilia. If you ever get close to a human... And human behavior, be ready to get confused. And me and my hereafter, there's definitely no logic. Quello che noi oggi vediamo qui in questa piazza, un fuoco che arde ancora, nonostante tutto, nonostante la violenza, nonostante i fucili che seguono e braccano tutti nei boschi, nonostante il sangue e il sudore di tutti gli animali che in ogni istante vengono uccisi, sacrificati da questo sistema orribile di dominio. Nonostante tutto questo, noi, grazie insieme a voi, ci siamo rialzati, ci siamo levati da terra, siamo risorti ed insorti. Stiamo tentando di riorganizzarci e abbiamo iniziato a fare ciò che ci riesce meglio: prenderci cura, accudire, creare un'alternativa, costruire, disegnare nuovi mondi in cui possiamo di nuovo essere al sicuro, in cui non dobbiamo avere paura che qualcuno venga davanti al nostro cancello. Siamo qui per dire che ciò che è accaduto il 20 di settembre a Sairano non possa e non debba accadere più. Siamo qui per chiedere la giustizia per i 9 maiali del rifugio progetto Cuori Liberi assassinati. Siamo qui per chiedere giustizia per tutte le migliaia, le decine di migliaia trucidati in silenzio e senza considerazione nei focolai e negli allevamenti, affetti e infetti da peste suina africana nel Pavese e nel Mantovano, dove le telecamere ancora una volta, per fortuna, hanno svelato, hanno smascherato l'orrore di un sistema produttivo brutale, violento, che noi ripudiamo con tutte le nostre forze e che vorremmo cessasse di esistere in questo momento. Ciao, di che organizzazione siete? Anonymous for the Voiceless. Da dove vieni? Io dal capitolo di Ferrara. Siamo presenti in 68 città in Italia, solo in Italia. E questa è un'organizzazione che esiste dal 2016, nasce in Australia ed è presente in oltre 400 città del mondo. Oggi siamo vicini al capitolo di Roma, che è stato chiamato, diciamo, a rinforzo dell'organizzazione della rete dei santuari. E quindi diamo il nostro contributo con questi schermi che vengono generalmente utilizzati nei nostri cubi della verità. Si chiama così. Oggi abbiamo una proiezione che riguarda proprio il discorso di Sairano e quindi di questi animali che erano stati ricoverati, salvati in questo santuario, e generalmente invece facciamo vedere video che riguardano il trattamento, l'abuso, la sofferenza e l'uccisione degli animali in qualunque tipo di allevamento, intensivo o estensivo. Volevo chiedere se c'era un nesso tra la tua bandiera palestinese e questo tema. Sì, l'oppressione. Basta questo, penso. Un popolo oppresso, gli animali, umani, gli animali dei rifugi che sono stati uccisi, quindi la morte, il male. Questo lega i due concetti, purtroppo. Dal governo israeliano, i palestinesi sono stati definiti, e non per la prima volta, animali, bestie, dando ovviamente a questi termini l'accezione antropocentrica che colloca gli animali non umani in categorie inferiori alla nostra e come tali legittimamente sfruttabili e macellabili. Peraltro, intere popolazioni indigene resistenti in questa categoria sono state inserite, deumanizzandole, e ha sempre fatto parte delle strategie degli stati imperialisti coloniali, gli stessi che oggi giustificano, accettano e supportano il genocidio dei palestinesi, perché non solo bestie, ma popolazione non europea, non bianca, e soprattutto perché è popolo resistente. Ci troviamo davanti al Colosseo in questo momento, il corteo sta arrivando al suo punto finale e giustamente è stato fatto notare che, così come gli animali feroci, selvatici, venivano costretti qui nel Colosseo a combattere, nello stesso modo oggi ancora nei circhi, negli sport equestri e in mille altri modi gli animali continuano a venire sfruttati e considerati oggetto a nostra disposizione. E costretti a trasportare turisti sotto al sole sull'asfalto bollente, le famose e tristi botticelle di Roma. Tigri, leoni, scimmie, elefanti e tantissime altre specie prelevate dai loro habitat e rinchiusi nei tantissimi circhi che si attendono qui nella capitale. Delfini, pinguini e altri animali acquatici rinchiusi anch'essi in un'altra prigione a pochi passi da Roma, il famoso e tristemente Zoo Marine. In questo stesso paese, a distanza di 2000 anni, animali umani e non umani in via di estinzione come orsi, lupi, mufloni e centinaia di uccelli, invece di essere protetti dallo Stato e dalle leggi, vengono imprigionati in qualche lager o sterminati a causa della caccia. In questo stesso pianeta, a distanza di 2000 anni, parole come schiavitù, sfruttamento, dominio non dovrebbero più esistere, ed invece ogni giorno abbiamo la dimostrazione del contrario. Allora, c'è un movimento, si chiama il primo cristianesimo. Il primo cristianesimo è il movimento in cui Gesù di Nazareth ha dato testimonianza del suo amore grande verso gli uomini, la natura e gli animali. E nei Vangeli, quelli veri, originali, Gesù di Nazareth, c'è scritto tantissime cose a favore degli animali. Questo Vangelo si chiama il Vangelo della vita perfetta, o il Vangelo, questa è la mia parola, è stato riscritto nel nostro tempo. In questo Vangelo c'è tutti gli insegnamenti di Gesù a favore degli animali, però il comandamento non uccidere, che io sto diffondendo, che Dio, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, dona ai popoli, è stato sempre tradito dalle religioni. Quindi hanno fatto le guerre tra di loro e gli animali non sono mai stati considerati. Ma il vero Dio dell'amore è il Cristo, suo figlio, è il principe della pace, l'amore e la pace assoluta. Pertanto per me riabilitare la figura del Cristo, oltre l'amore per gli animali, per me la sento importantissima. Siamo partite stamattina con il volo delle 7.30 e ripartiremo stasera con il volo delle 23. Siete attiviste? No, noi siamo volontarie di una piccola associazione in provincia di Siracusa, esattamente di Rosolini, associazione Cuore Randagio. E nulla, abbiamo ritenuto che fosse doveroso partecipare, quindi abbiamo partecipato anche alla manifestazione a Milano. È successo che 9 anni fa mio fratello ha portato a casa la nostra attuale cagnolina, è sempre presa dalla strada, e niente, lì si è aperto il mondo, cioè io ho aperto gli occhi. Di dove sei? Di Salerno. Sei venuta da Salerno? Sì. Che è successo? Come mai a un certo punto sei diventata un'attivista? Sono diventata vegana perché vidi un video di un animale, me lo fece vedere un mio amico, un maiale, nemmeno a farlo apposta, e quindi da lì ho smesso di mangiare la carne, un maiale che veniva ucciso brutalmente. Il mio amico rideva di questo video e io sono rimasta sconvolta, sono sempre stata molto sensibile anche da bambina. Siete una famiglia animalista? Di dove? Dei Castelli Romani. E come mai siete qua? Abbiamo un rifugio a Genzano, Zampe Felici Onlus. Anche noi ospitiamo una cinquantina di animali, tutti salvati dal macello. Anche, ecco, non solo cani e gatti. No, quindi. No, cavalli, pecore, mucche, bufali. Siete anche vegani? Certo, soprattutto. Ah, sì? Anche i bimbi? Anche i bimbi, certo. E ricevete critiche per questo? Sì, nessuna costrizione, è una scelta loro. Quanti anni hai? 13. Come ti chiami? Beatrice. È complicato con i tuoi compagni, con i tuoi coetanei essere vegana? Un pochino, perché comunque se devi andare a casa loro devi per forza fargli comprare le cose adatte. E lo fanno? Ti vengono incontro? Sì, sì. Sì. Alla filosofia. sta dietro il conservazionismo. Pensiamo anche a Biodiversità Italia, che è un progetto agghiacciante portato avanti da Federcaccia, che si ripromette di controllare le popolazioni dei selvatici per evitare danni all'ambiente, per conservare le specie in maniera sana, grazie a questo essere umano che dall'alto vigila su tutto e si erge a Padre Eterno e stermina a destra e a manca, fondamentalmente poi per portare profitti ai soliti noti. Non dimentichiamoci di chi stiamo parlando. Pensiamo a Federcaccia, a Coldiretti, purtroppo sono il primo partito italiano. Pensiamo alla lobby delle armi che sta dietro Federcaccia, a tutti questi che si sparano tra loro nei boschi, ammazzando animali ed esseri umani. Dobbiamo controattaccare, dobbiamo tornare a casa e trovare la forza di riorganizzare la lotta. Loro hanno alzato il tiro, dobbiamo alzarlo anche noi. Alla faccia di chi dice che la politica deve stare fuori dall'animalismo, noi diciamo che l'antispecismo è politico, è un'unica lotta. E pensiamo anche a Giulia, questa ragazza che oggi è stata trovata uccisa, perché quando parliamo di intersezionalità parliamo di questo. Non è stata uccisa da un lupo, da un orso, da un mostro, è stata uccisa da un uomo. Ci serve una lotta politica intersezionale, forte e radicale, perché il sistema che combattiamo è potentissimo e noi dobbiamo dare tutto il possibile per essere all'altezza di queste sfide. Chiudiamo con l'immancabile ricetta della settimana a cura del tosco vegan chef Gabriele Palloni, autore fra gli altri del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton. Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà. Semplice, buona, genuina ed efficace. Come la manifestazione non violenta, la ricetta di oggi arriva dalla capitale. Pizza bianca romana. Gli ingredienti per 4 persone sono 500 g di farina tipo 0, 325 g di acqua, 10 g di sale, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, 4 g di lievito di birra. Disponete la farina in una ciotola capiente, unite il lievito impastando e incorporate l'acqua a temperatura ambiente. Lavorate per una decina di minuti, aggiungete il sale e l'olio extravergine e terminate di impastare quando sarà completamente assorbito. Mettete la pasta su una spianatoia e piegatela più volte su se stessa. Infine, ruotando l'impasto, formate una palla liscia e ben stretta. Mettete l'impasto in un contenitore spennellato di olio, sigillate col coperchio o della pellicola e fate lievitare a temperatura ambiente per 10-12 ore. Recuperate l'impasto, formate nuovamente una palla e lasciate lievitare a temperatura ambiente per altre 2 o 3 ore circa. Adesso stendete l'impasto con le mani su una placca da forno leggermente infarinata. Una volta stesa, versate un cucchiaio di olio a filo sulla superficie e infornate per 10 minuti in modalità ventilata a 280 gradi. Togliete dal forno e gustate, farcita o semplicemente così. Per questa settimana è tutto. Vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Francesco Pagnè, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Zenone Sovilla e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa rete. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.